questa mossa io la considero una aperta provocazione e come ho tentato già di dire con una dichiarazione questa mattina, per quanto mi riguarda è una giornata triste, tristissima per Gerusalemme, perché questa scelta, oltre che essere una provocazione, rischia davvero di inaugurare una fase di destabilizzazione ancora più ampia di quella che attualmente c'è e che può riguardare l'intero Medio Oriente. Teniamo anche conto che di fronte a tensioni di questa natura poi possono innescarsi anche variabili che oggi non sono per nulla controllabili, quali quelli del terrorismo. Vi è stata già una dichiarazione di Al-Qaeda al riguardo che ha detto sostanzialmente che bisognerà riprendersi anche Tel Aviv. Insomma, vorrei far comprendere sostanzialmente che sia Netanyahu sia Trump stanno svolgendo un ruolo davvero molto negativo in quell'area e davvero derive pericolose possono affacciarsi all'orizzonte. L'Unione Europea, insomma, aveva detto già no a questa decisione, eppure ci sono quattro paesi, Austria, Romania, Repubblica Ceca e l'Ungheria di Orban, che presenziano all'inaugurazione. A questo punto le chiedo, insomma, il ruolo dell'Unione Europea in questa partita. Io credo che ho letto una dichiarazione di un portavoce della Commissione Europea che non si è spinto nel giudicare questo comportamento di questi quattro paesi, ma io credo che questo comportamento vada assolutamente stigmatizzato, perché deve risultare evidente che la posizione dell'Unione Europea è quella che è già stata assunta più volte e confermata, che è quella che da Tel Aviv non si sposta, no? Gerusalemme deve essere considerata una città di tutti e non certamente la capitale di Israele. Per questa ragione ritengo indispensabile che l'Europa da un campo metta fortemente in atto un'iniziativa proprio per affermare di nuovo tutto questo e poi richiami all'ordine questi paesi che non possono assolutamente andare da soli, perché c'è un atteggiamento comune che nella politica estera deve essere assunto. Per quanto mi riguarda c'è un problema in più, perché ovviamente i governi della Repubblica Ceca, dell'Ungheria non rispondono a criteri politici che per quanto mi riguarda sono vicini alle mie posizioni, ma la Romania ha un governo socialista. Io credo che anche il Partito Socialista Europeo debba intervenire per richiamare questo governo ad un comportamento che sia un comportamento coerente con le impostazioni date non solo dai socialisti europei, ma nello stesso tempo anche dall'Unione Europea. Ecco, lei prima ricordava il fragile equilibrio in Medio Oriente. Oltre alla questione dell'ambasciata a Gerusalemme, ricordiamo che recentemente l'amministrazione americana ha ritirato la propria partecipazione al programma sul nucleare iraniano. L'Europa può fare qualcosa anche per persuadere Trump che sta scherzando col fuoco? Credo che possa fare molto dal punto di vista di un'iniziativa che non può essere lasciata ai singoli paesi. Mi riferisco alla Francia piuttosto che alla Gran Bretagna, pur essendo tra i firmatari di quell'accordo sul nucleare. Ci deve essere una forte iniziativa dell'insieme dell'Unione Europea, innanzitutto per salvaguardare quell'accordo e poi per far giungere, se si riesce, a più miti consigli l'amministrazione americana. Non c'è dubbio però che anche quella decisione si accumula alla provocazione dell'ambasciata a Gerusalemme e questo rende particolarmente il Medio Oriente una polveriera. Quindi è un problema molto serio che l'Unione Europea non può non farsi carico, anche perché questi conflitti sono conflitti di prossimità, non solo prossimi ai confini statunitensi ma a quelli europei sicuramente.